su Radio 24 che trasmette la passione, ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sai questa? No, molto. Sono impreparato, ignorante, nel senso che ignoro. Non la come sai? Va? Benissimo. Non la sai? No, perché quando eravamo. Ma forse eri troppo giovane. Se la ricorda Roberto Scaltretti, regia, anche il Pianta, autore di questo programma, se la ricorda, scusa, Quando eravamo ragazzini, a quelle ore lì, un po' così, guardavamo Colpo Grosso. Ah, ma scusa, ma Colpo Grosso, io ero frecciolata di Colpo Grosso. E allora, non te la ricordi? Caputa, allora sono bollito. No, sei bollito, sì. Grandissima qualità Colpo Grosso, è stata una rivoluzione televisiva, diciamo, insomma, no? Il trash che arriva in televisione, sì. Però la puntata del sabato era la mia preferita. Ma io le guardavo tutte, quando non potevo le registravo col VHS. Senti, Umberto Smaila di Tiki Taka, buongiorno. Buongiorno, grazie. Salutiamo Umberto Smaila che magari ci sta ascoltando. Tutto bene, tutto procede alla grandissima. Sì. Abbiamo tante cose di cui parlare oggi. Sì. Parlare di Tiki Taka. Peccato che non mi fai dormire. Peraltro ieri sera a Meni Sassata, la signora Muntari, c'era anche tantissima qualità. C'era qualità, c'era una serie di persone. Che te fa? Cosa ti stanno facendo? Pardon. No, sono una specie di oggi. Sono in una visita in un'azienda dove lavoravo tipo 12 anni fa. Quindi c'è gente che non vedo 12 anni. Ah, perché lavoravi? Lavoravo, sì. Non ci credo. È durato poco. Passami il tre capo. Anni. No. facevo marketing. No, però volevo dire che da ragazzini recuperavamo. Magari non si andava a scuola. Passiamo adesso il lunedì fino a mezzanotte a guardare il processo. Ieri sera al Lotito, straordinario, poi lo sentiamo. Poi inizia Tiki Taka e poi se comincia a fare un salto in America, World Series di baseball. Boston. La produttività del martedì, lo capisco, è abbastanza bassa. No, ma forse solo il martedì. Boston adesso 3-2 su St. Louis nel World Series. Giocherà in casa per il titolo. Da stanotte comincia l'NBA, c'è Miami contro Chicago e poi ne parliamo. Per fortuna vivo da solo, anche perché quando poi riesco ad addormentarmi alle prime luci del mattino ho gli incubi e sento le voci. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Si muove LeBron James, blocco di contenimento di Bosch. James da tre per il pareggio, fuori, si salta ribasso, la prende Bosch. Dire tante cose di Mario Balotellina che non sia una grande punta, perché questo è sicuro che è una grande punta e che magari ci porterà anche nel Chelsea. Uno è sicuro e devo capire dove impiegarlo, che è Samuel, che voglio dargli la giusta chance, perché ora sta bene, un po' che si allena. No, il segreto è la compattezza, nel senso che questa squadra ha una grandissima capacità di sacrificio, una grandissima organizzazione e degli interpreti validi. Moggi? Secondo me lui... Cosa che ha tolto lui? Lui mi ha discudetto quell'anno. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Is going to come to the plate. Here's the throw. He sento la voce di Pierluigi Pardo, di notte la risento negli incubi e anche di giorno. Pier, o mi trovi un tutor o siamo fregati? No, ce l'hai un tutor per me? L'argomento tutor è veramente sgradevole. Su questa cosa io sono raioliano, perché dai, il tutor è quasi un concetto offensivo, insomma. Ognuno deve uscire dai problemi e migliorare i propri comportamenti con l'aiuto degli amici, con l'aiuto dei compagni di squadra, con l'aiuto della società, ovviamente, soprattutto se una società importante come il Milan, che ha spalle larghe. Però insomma, il concetto di tutor è veramente, per una persona maggiorenne, ha detto bene Crosetti ieri sera a Tiki Taka da te, no? Il concetto di tutor mi ricorda un po' il Cepu, non mi piace tanto. Sono abbastanza d'accordo, insomma, dai, poi veramente rientriamo sul solito discorso che finiamo per psicanalizzare il numero 45 ogni giorno e basta, no? Anche perché poi comunque lui un appello l'ha fatto, poi insomma fra un po' faremo un bilancio tecnico, insomma. Io rimango convinto che ancora non si sia visto un Balotelli capace di dominare per una stagione intera, di essere uomo squadra per una stagione intera e di diventare quindi il giocatore che noi tutti speriamo possa diventare per il bene suo e della nazionale, di tutta la nostra santa nazionale. Però al netto di questo, poi alla fine la vita è la sua, e quindi io sono contrario anche a queste operazioni di normalizzazione, perché se tu prendi so chi sempre ieri sera da te diceva, Mughini credo, come fai a normalizzare George Best, Gascon? Ci sono tre contro. Come li normalizzi? Ma perché normalizzarli? C'è stato un momento che Cassano si è normalizzato, e secondo me in generale si è normalizzato, nel senso che se poi noi guardiamo le sue ultime stagioni è diventato un giocatore molto più normale, no? Ma è anche un trentenne, Sì, sì, ma infatti c'è stata la doppia paternità, c'è stato il matrimonio. Si perdono delle caratteristiche e si guadagnano delle altre. Certo, il genio è come quando tu sei in un'azienda o nella vita, hai dei punti forti e dei punti deboli. Devi lavorare sui punti deboli per migliorarli, o devi lavorare sui punti forti per renderli ancora più forti, a costo anche di avere delle cose che non riesci a fare benissimo, avere delle situazioni che non riesci completamente a governare? Non lo so, io penso che per esempio Cassano un certo tipo di imprevedibilità, cioè Cassano da giovanissimo giocava veramente senza mai paura di niente. Certo. Secondo me questa caratteristica lui un po' l'ha persa. In generale negli ultimi anni, secondo me, ha fatto delle stagioni, dalla Sampdoria in poi, ha fatto delle stagioni molto più concrete, molto più, alla fine molto più positive. Sì, è vero, però poi magari nella partita secca, cioè Cassano poi sbaglia il rigore in finale, certo, Coppa Italia, certo, e Lazio Samp. Secondo me a 20 togliere... anni sarebbe andato con una faccia diversa. Sicuro, ma non puoi togliere dai Kyrie Hemingway i surrogati mentali a Baudelaire, Rimbaud e poeti maledetti francesi. Potremmo star qui ad elencare una lunga lista passando attraverso rock and roll e quant'altro, ma lo faremo magari con voi. 800 24 00 24, traffico, e poi di nuovo con Pierluigi Pardo e con un ospite che stiamo aspettando. Tutti convocati. 800 24 00 24, numero verde. Sì, non ho dimenticato la NFL, caro Piero, caro ascoltatore. C'è anche quello a rendere insopportabili le notti d'autunno. Tu ci pensi la vita senza sport? Adesso, cioè, sinceramente, adesso io so che sono di parte, posso sembrare anche così un grigio e così molto working class, non hero, ma personaggio appunto in cerca di se stesso e di una legittimazione culturale. Ma la vita senza sport sarebbe una roba, cioè poi pensate che da domani mattina tutto è uguale, no? Cioè, non c'è più lo sport, che fa? Cioè, che fa? Hai capito? Io e te, oddio, andiamo a lavorare lì nell'azienda dove sei tu. Le cose da fare ci prendono. Però insomma, sarebbe un pezzo importante che se ne va di vita. Io non so se Massimo Oddo ha dei problemi a dormire. Ve lo chiedo. Buongiorno a tutti. Ciao Max. Ciao, io dormo abbastanza serenamente, dai. Sì, ti risparmi Tiki Taka? Domani sera viene ospite a Tiki Taka, domani sera puntata speciale 23:20 Italia 1, però viene 8. Compatibilmente agli impegni che ho televisivi, vado a dormire presto e dormo bene. Compatibilmente, mentre quando vai in televisione vai a dormire tardi e dormi malissimo perché risenti Pardo. No, perché lui fa sempre trasmissioni tardi, capito? Finisce tardi, quindi per forza di cose bisogna andare a dormire più tardi. il mio sogno è saldarmi con la TV del mattino, capito? Andare avanti fino a notte e poter dire adesso diamo la linea ad Agorà piuttosto che a 1 mattina o a mattino 5. Questo a chi bisogna scrivere? Io sono per anticipare tutto, la cena, l'ingresso in discoteca, tutto quanto, discoteca alle 10, mezzanotte sei già a casa e vediamo cosa succede. Teoria, ma non ha mai attecchito, questa cosa non ha mai attecchito, però è... Non sarebbe sbagliato come ragionamento. Che cosa ha il Milan, Massimo? Ce lo dici in due parole? Il problema qual è? Sicuramente mancanza di autostima, risultati negativi che creano questo status, magari poca compatibilità in questo momento con i propri tifosi quando si gioca in casa, anche quando si gioca fuori effettivamente, perché poi i risultati non sono ottimali neanche fuori, e sicuramente è indubbio dire che in questo momento il Milan ovviamente non è il Milan di qualche anno fa, i valori tecnici che esprime in campo non possono essere tali, e quindi ha qualche problemino. Qualche problemino grosso, credo, tanto che Allegri mi sembra che cammini, da sempre cammina sulle punte, adesso più che mai. Mi sa che lui si fa fatica a prendere sonno, Massimo. Beh, un allenatore, nel mio piccolo posso confermare che per un allenatore è dura, perché comunque si sente sempre responsabile di tutto, di tutti. In questo momento, quando le cose non vanno bene, ovvio che si pensa e si ripensa. Questo accade soprattutto la notte quando si va a letto e non si prende sonno, perché si cerca di capire quali sono i problemi e si cerca di capire soprattutto come si può uscire da questo momento. Tante volte non è facile e bisogna lavorare. La solita frase che viene detta e ridetta, si deve lavorare sul campo per migliorare, è la pura e mera verità. Oltre a quello non puoi fare nulla. Voglio farti sentire, Massimo Oddo, una voce anche a te. Non sono solo io che sento le voci. Senti questa. Qual è la magia della Roma, allora? Come Roma, la magia della Roma? Lo dice la parola stessa, lo dice. La Roma è magica. Quindi non c'è, secondo lei, no? Non si pronuncia. Ma io sono un cattolico praticante, vabbè, cristiano, sì, quindi... Sì. Ma non credo, la magia credo del concilio, poco. Del concilio credo sempre, io, prima no, dello scisma. No, io credo... siccome è una visione scatologica, credo sempre al valore del bene. Il valore... Una visione scatologica, sono... praticante. Io ho fatto appunto l'anno scorso la rubrica di Lodito con Ladino, io ti posso dire che la visione scatologica è proprio è tipo il jolly, cioè Lodito la visione scatologica ce la mette. Se lo saluto il presidente che l'anno scorso ha fatto questa rubrica in Ladino, dimostrando grande autoironia, ma la visione scatologica è una cosa che c'era sempre, cioè, qualsiasi cosa chissà la quanto si è divertito. Ontologica e scatologica, ontologica e scatologica, certo, chissà Massimo quanto si è divertito con Lodito o no. No, mi sono divertito tantissimo. È un personaggio, ovviamente ha dei lati oscuri del suo carattere che non lo rendono simpaticissimo alla platea, soprattutto quella laziale, ma io credo che sia agli occhi di tutti i tifosi d'Italia, escluso ovviamente i diretti interessati che sono i laziali, il presidente più simpatico. non mi sembra poco, ma da ex capitano della Lazio guardi la Roma giocare così, vincerne 9 e senti che cosa? No, io rimango affascinato veramente da cosa la psicologia può fare a livello umano, a livello di squadra, a livello di organico, di tutto, perché se noi andiamo a vedere la trasformazione che hanno avuto determinati giocatori in questa Roma, quello che erano l'anno scorso e quello che sono quest'anno, veramente mi metterei sui libri a studiare psicologia per cercare di capire come si possono trasmettere determinate cose a dei giocatori, cose che fanno sì che diventino altri giocatori. Confronto all'anno scorso, se noi ci ricordiamo De Rossi dell'anno scorso, era un giocatore normale, qualunque, quest'anno fa la differenza. Indubbiamente De Rossi è un grandissimo campione, però ci rendiamo conto che poi, vedendo queste cose qui, oltre all'aspetto tecnico e tanti altri aspetti calcistici, conta Massimo tantissimo l'aspetto psicologico, quindi l'autostima della squadra, l'armonia, l'empatia con i propri tifosi, tante cose che sono troppo importanti. siamo al confine dell'elaborazione del lutto, secondo me, nel senso che chi conosce Roma sa che quello che è successo alla Roma l'anno scorso è qualcosa di incancellabile, se vuoi, no? Nel senso che comunque perdere la Coppa Italia, è chiaro che non è la Champions League, però perdere la finale di Coppa Italia in quel modo, con tutto il carico di sfottò, è una macchia che ti rimane nella storia. E aver trasformato quel lutto, quel dolore, in una incredibile ripartenza, e mi fa piacere che Massimo lo sottolinei, è una storia straordinaria dal punto di vista della psicologia dello sport, perché comunque significa che c'è sempre un quasi vita, se riesci a trovare dentro di te poi le risposte, l'impegno, il coraggio, la capacità di reagire. Poi secondo me ci sono anche degli elementi oggettivi, un allenatore nuovo che sta pesando tantissimo, alcuni giocatori nuovi che hanno portato un carico di attributi, di personalità di un certo tipo, insomma, al di là della genialità dell'altro giorno, Maicon mi sembra che stia dando un tipo di sicurezza. De Santis in porta, è vero, gli tirano poco, però quelle volte nelle quali gli tirano, lui c'è sempre. Insomma, mi sembra che una squadra che ha recuperato, forse negli ultimi due anni ha fatto troppi esperimenti, sia dal punto di vista della scelta tecnica con gli allenatori che ha avuto, sia dal punto di vista della rosa, un mix di totem, di campionissimi come Totti con poi dei ragazzini. Adesso mi sembra una squadra molto più equilibrata, ha trovato dei giocatori di mezzo, Benatia, Castan, che stanno dando un contributo di un certo tipo, anche Balzaretti è un giocatore comunque rispetto all'anno scorso nettamente migliore. No, poi voglio notare, e voglio soprattutto girare una considerazione all'allenatore Massimo Oddo, giocano in 11 titolari, ed è così che secondo me si parte nella costruzione di una squadra. Ah vabbè, ma quello è fondamentale, soprattutto nel calcio di oggi, non ti puoi permettere di avere determinati titolari, e soprattutto ti puoi permettere di perdere giocatori in campo. Quando tu vedi un giocatore come Totti, quando all'inizio dello scorso campionato si diceva Totti deve star lì, quando gli arriva palla fa gol, no, non è quello, Totti deve star lì e quando gli arriva palla fa gol, ma quando ci si difende torna anche lui, è quello che sta facendo quest'anno, e questo fa la differenza. Ma a volte a me piacerebbe, sapete come sliding doors, no? Sì. Perché poi la psicologia è strana, io non so se magari la Roma fosse partita quest'anno a perdere le prime due partite, se poi non avesse perse anche altre quattro. Certo. Stessa cosa per il Milan, magari il Milan se avesse vinto le prime tre partite magari a questo punto avrebbe 15 punti in più, perché poi è troppo strano, e sono cose che bisognerebbe veramente sperimentare, ma è così. Io sono convintissimo che anche la buona partenza di una squadra in un campionato faccia sì che questa faccia grandissime cose, anche oltre le proprie aspettative. Sì. Milan-Lazio è la tua partita, chi vince? Domani sera. È una partita veramente strana, perché si incontrano due squadre che in questo momento hanno tra virgolette paura di sbagliare ancora, perché fino a questo momento hanno sbagliato entrambe tantissimo, e quindi cercheranno di fare bene, ma io mi aspetto una partita brutta. Magari mi sbaglierò, però la paura fa anche questo. La paura fa anche questo. Non fa 90, quindi, ma non fa, fa 90. La metà, io, e poi 45. Penso, Carlo, che il giudizio, e quindi, credo che sarà una partita almeno all'inizio bruttina, perché le squadre si studieranno, aspetteranno, avranno paura di subire, di perdere, di prendere gol, e quindi sarà certamente una bella partita, e tra due squadre che comunque effettivamente hanno dei valori tecnici in campo importanti. Grazie Massimo. Grazie a ciao voi. Massimo. Ciao Max. Ciao a tutti. Volevo dire a Carlo che secondo me sul giudizio della stagione della Lazio pesa molto anche la Roma, come sarebbe normale anche il contrario, no? Sì. Perché alla fine, insomma, per carità, la Lazio poteva avere qualche punto in più, sicuramente non sta facendo quello che i tifosi speravano, sì, ma non mi sembra una squadra in crisi assoluta, no, se guardiamo la classifica. Sai, Piera, a me che sorprende è questo limitato credito di fiducia che è stato concesso all'allenatore, che ha fatto l'impresa, appunto, storica, cioè, no? Noi è già in discussione, c'è la Mihailo pronta a entrare. Che non la vediamo da Roma, la vediamo da Milano, penso che tutto il resto d'Italia, insomma, Perkovic in discussione fa abbastanza ridere, nel senso che comunque non ha avuto un inizio di stagione clamoroso, ma non mi sembra che sia facendo una stagione catastrofica, quindi no. È molto difficile capire il clima. Credo che una chiave del clima non serenissimo che c'è in questo momento è legata proprio a questa eterna rivalità che fa sì che, insomma, se sei a 14 punti ma la Roma è a 16, forse va tutto bene. Se sei a 14 punti ma la Roma è in classifica, è più difficile gestire questa situazione. Non lo so, magari mi sbaglio, però non credo che questo elemento sia importante. Mi sa che non ti sbagli. Proviamo poi, dopo la borsa, a sentire anche gli ascoltatori. 800 24 00 24. Io so, sorrido per un semplice motivo, tanto questa era una trasmissione ironica. Tutti convocati. Volevo tirare la punizione prima quando è stato fallo di Rosi, ma era troppo lontano. E invece sulla seconda devo dire che Gargano ha portato leggermente la palla avanti, perché non, la posizione non era lì. La porta leggermente, quando ho visto che la portava avanti, diceva niente, ho detto io calcio. E effettivamente la distanza era un po' più vicina, ha ingannato un po' il portiere e è andata bene. Questo ovviamente era Parolo, bravissimo giocatore del Parma, che ha impallinato due volte il Milan domenica, la seconda con quella famosa, famosa punizione, che non è piaciuta per nulla a Galliani. Sempre in casa rossonera, a Tiki-Taka ha parlato Minorella? Sì. Sì, teoreticamente sì, perché Mario e Modino si sono passati in odio, c'è stato un episodio non simpatico, però si sono sempre lasciati bene, sono tenuti in contatto e c'è un rispetto reciproco per la persona. Poi io so che Galliani non è di questo parere, però credo che si può dire tante cose di Mario Balotelli, ma che non ci sia una grande punta, perché questo è sicuro che è una grande punta e che magari ci porterà anche nel Chelsea. E chiaramente Raiola qui fa il suo mestiere, si parla sempre del numero 45 rossonero, come ovviamente avrete capito, numero 45 rossonero che domani sera, in una partita così importante come quella con la Lazio, una partita forse decisiva per molti assetti e forse per la panchina di Allegri, diciamolo pure, giocherà, lo dice Allegri. Ma no, non è di difficile gestione, io lo valuto per quello che fa sul campo. Domenica Parma non aveva fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico e l'ho tolto. Domani sarà della partita, credo che farà una buona partita, ieri si è allenato bene, credo che va lasciato anche un po' in pace, perché si parla troppo anche della sua vita privata, delle sue cose. Io credo che Balotelli vada valutato per quello che fa in campo, come tutti i giocatori di calcio, perché giocano a calcio. Perderlo a gennaio dopo le parole del procuratore? Assolutamente no. Balotelli è un giocatore del Milan, l'anno scorso è arrivato a gennaio, ha fatto grandissime cose, ha fatto 12 gol in 13 partite, quest'anno è stato importante all'inizio. Può capitare a un giocatore di giocare male, poi è normale, se lo fa Balotelli tutto viene elevato alla massima potenza. Allora, Pardo si è allontanato un attimo perché doveva mangiare qualcosa, se no sveniva, e ovviamente non vogliamo perderlo, magari lo ritroviamo dopo. Cesare Ravenna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Genta, buongiorno. Mi sentite, spero, sì? Sì, benissimo. Sì, perfetto. Volevo semplicemente fare così due osservazioni sulla mia Roma. Io sono un romanista dai tempi del compianto Giuliano Taccola, quindi stiamo parlando del 66-67, sì. Quindi ne ho visti di tutti i colori, e vivendo a Ravenna vivo in un ambiente ovviamente ovattato, lontano dalle pressioni, diciamo così, di Roma, eccetera eccetera, quindi credo di essere un po' più staccato. L'osservazione è questa: innanzitutto io spero che, se le cose andranno bene, per bene intendo il terzo posto, la Champions, perché lo scudetto è cosa di altro. Ma perché? Mi sembra di sentire Sabatini, no, abbiamo anche il suo direttore sportivo, se vuole, che dice vabbè, la stessa cosa. No, bisogna dire la verità, comunque voglio dire, adesso è la seconda osservazione, la prima osservazione è che comunque la Lazio ci stimola, perché tipo dello scudetto i cugini, l'anno dopo lo vinciamo noi, quindi sicuramente può darsi che la vittoria in Coppa Italia della Lazio è stato uno stimolo anche per la squadra, per dare il massimo, la cosa bisogna anche segnalarla. Grazie Lazio, quindi lo dica. Ma perché no? Insomma, no, lo dica, grazie Lazio. Grazie Lazio, se ci fa vincere, se ci fa arrivare in Champions, beh, bene così. La cosa che mi preoccupa è che, appunto, non avendo noi due squadre praticamente come hanno Juve e Napoli, ma una squadra è un po', una squadra e mezzo, sento notizie di tournée oltreoceano, ed è per me pericoloso, perché la forza della Roma sta anche nel fatto di non giocare le coppe. Sì, certo, certo, ma certo, è questa è una chiave importante, perché ne parlavamo prima con Oddo, perché ti permette di cementare la squadra sulla base di 11 titolari, che poi è il senso di questo gioco, quindi di limitare il più possibile il turnover molto ampio, eccetera eccetera, di di rodare bene tutti i meccanismi, di far funzionare le cose, di far crescere la fiducia all'interno del gruppo. Poi facendo così si accettano anche in maniera più leggera i ruoli che l'allenatore ti riserva, cioè stai in panchina quando è il momento, entri e cerchi di fare il tuo in una squadra vincente. In una squadra perdente diventa un po' più un casino, quindi la Roma è perfetta così. Però non capisco questo al momento, questa voglia di tenere basso il livello dei sogni. Bruno da Genova, 800 24 00 24, siete convocati sempre. Se mi permette, posso darvi delle simpatiche canaglie? Ma volentieri, gran complimento. Siete veramente fantastici. D'accordissimo su tutto e complimenti a Oddo per l'analisi perfetta, veramente. Bravo, adesso allena la sua squadra, cioè le giovanili della sua squadra, è diventato giallo-blu. O no? Sulla Roma credo che comunque abbia dei valori tecnici che non possono essere nascosti, cioè dei giocatori, forse ha avuto veramente 2 anni persi con dei tentativi maldestri, maldestri, sia il primo che il secondo, più il secondo del primo, ma questo è il mio giudizio personale. I valori in campo sono indiscutibili, secondo me, almeno nei 13-14 della rosa, insomma, sì, tocca contro tutti. No, ma poi soprattutto se valutiamo come si fa secondo i sacri testi, il valore assoluto di una che leggo poco, peraltro, come sapete. Però il valore assoluto di una squadra dal peso specifico del centrocampo, mi sembra che il centrocampo della Roma sia pari soltanto a quello della Juventus, che possa essere così messo in difficoltà soltanto dal centrocampo della Juventus. Sono due mediane meravigliose. Perché squadra fa il tifo, Bruno? Io sono juventino, ma come dire, abbastanza morbido. Morbido. Ecco, allora... Per il bel gioco, e devo dire che ho visto la Roma bel giocare gioco, veramente... Sì. Molto bene. Quando? Domenica? Non tanto domenica, appunto, questa, ma domenica non ha giocato prima, molto bene. No, la partita prima. Domenica non ha giocato molto bene, ha vinto in 10 e questo è una, dicevamo prima, un aggravante della sua forza, no? È una conferma ulteriore della sua forza. Non capisco perché a questo punto ci si debba in questo modo abbruttire nei pronostici. L'ha fatto Sabatini, che non vuol sentir parlare di scudetto per nessuna ragione al mondo. Non so. La parola scudetto è diventata un obiettivo per la Roma o rimane un sogno dei tifosi? Ma una parola, semplicemente non possiamo riformare il vocabolario della lingua italiana, esiste questa parola. Non ci sembra il caso, non è una cosa che si riguarda. Però vogliamo sicuramente confermare ogni domenica quello che stiamo facendo e vogliamo difendere la nostra posizione. Dunque, non pronunciarla va bene, dire non possiamo pensarci mi sembra scusate, eccessivo. Intanto Garcia in conferenza stampa ha detto: fortunati noi, ma che siamo un gruppo unito. Questo l'ha detto oggi. Andrea Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Buongiorno. Mi dai il link con Garcia? Devo dire, vorrei una considerazione, un parere da parte tua e di Pardo, perché vedo quest'anno 2-3 allenatori come Benitez, Garcia, che sono sempre educati, pacati, rispondono alle domande, e poi vedo Conte che solleva una polemica inutile per il solo scopo di alzare la voce contro chi? Contro i giornalisti? Non lo capisco. È un po' l'abitudine che hanno alla Juve, alzare la voce. No, non necessariamente. Non necessariamente. Però questo insomma, la differenza sta nel modo diverso di approcciare il mestiere, una personalità differente. Con te, questo lo conosciamo, farebbe la stessa cosa da un'altra parte, così come Garcia e Benitez si sono sempre comportati così, sono allenatori di questo tipo e in questo modo si comportano, che poi non vuol necessariamente dire essere banali, perché non lo sono per niente. Sono anche due acuti interlocutori, non sono di quelli che arrivano lì e ti dicono si gioca in 11, la palla è rotonda, queste cose qui. e gente anche che ti dà delle spiegazioni o delle belle immagini, la chiesa al centro del villaggio, poi vediamo quando va fuori dal villaggio, e poi su ogni domanda un po' più impertinente o un po' più maliziosa, non comprendo, non capisco, no, ho capito la domanda, mi spiace, parlo poco italiano, non capisco, questo mi sembra... Mi sembra divertente, cioè, non mi sembra un personaggio banale o noioso. Garcia non mi sembra un personaggio noioso e banale. Benitez, Garcia, spettacolo di De Santis a Tiki Taka, sentiamolo prima del traffico. L'impatto che ho avuto con lui è stato fantastico, molto probabilmente non solo il mio impatto, è una persona di un'intelligenza e una cultura superiore, e questo chiaramente lo aiuta ad avere un ottimo rapporto con tutti, a relazionarsi rispetto all'interlocutore in maniera assolutamente privilegiata. E la grandissima capacità che ha avuto è quella che in circa una cinquantina di giorni ha assunto una proprietà di linguaggio dell'italiano che gli permette di essere chiarissimo a tutti i livelli. Tutti convocati. Chiaro, sempre convocati. 800 24 00 24, numero verde. Ma certo che credete veramente a tutto, eh. Ho detto prima a Pardo, sono andato un attimo perché aveva bisogno di mangiare. È uno che scrive: ma come? In diretta se ne va a mangiare? Ridicoli. In realtà no, doveva andare a cambiare il disco orario della macchina. Doveva andare a cambiare. O forse aveva un appuntamento galante. Non lo so. O forse è ancora lì e ci sta ascoltando. Chi lo sa? Sorpresa. Corrado, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Mi sente? Sì che la sento, forte e chiaro. Buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che chiamo, sono un po' emozionato, grazie della convocazione. Grazie a lei di aver risposto. Io volevo solo fare un'osservazione. Io sono un interista di quelli veri. Diciamo, sì, veri, che quando che l'Inter perde sta male per 2-3 ore fino al lunedì mattina. Non si sente bene, ma comunque insomma siamo abituati, negli anni abbiamo fatto il callo. Comunque io volevo solo fare, solo parlare di Tuir, mi tremano le gambe. Non per il fatto che Tuir sia una persona o non affidabile, perché non lo conosciamo, penso che non lo conosca nessuno in Italia. Speriamo che lo conosca bene Moratti, insomma. Però quello che mi dà fiducia è quello che sta succedendo alla Roma. Che fino a un anno fa dicevano che non avevano soldi, che non facevano niente, era un uomo messo lì dalla banca solo per fare gli interessi dell'Unicredit e via discorrendo, e adesso vedo quello che sta facendo la Roma, senza grandi investimenti, senza tanti soldi. Io spero che all'Inter succeda una cosa di questo genere. Insomma. Lei dice, adesso ha paura dell'ignoto, perché tu hai sbucato dal nulla, non lo conosciamo bene, e quindi fidarsi è bene, non fidarsi è... Sì, sono già venuti fuori discorsi di soci falliti, di soci che stanno fallendo, di centinaia di milioni di euro di debiti e via discorrendo, sa, non conoscendo la persona... Sì, un po' di FIFA c'è, vediamo com'è e poi ne parliamo, lei dice. Certamente, si è già detto molte volte, non si presenterà con il mazzo di fiori classico del grande campione, no? Omaggiando l'Inter di un grande campione, ha idee diverse, magari anche più moderne, certamente più rigorose, magari di più basso profilo, magari proiettate nel tempo. È vero però quanto lei dice, fino a pochi mesi fa molti dicevano: ma questi americani di Roma me parono ciarlatani. Invece Pallotta è uno insomma sulla cui solidità c'erano credenziali. Di Benedetto era uno messo lì, non si sa bene perché. Poi sappiamo come l'anima della Roma, anima societaria, sia estremamente complessa, con Unicredit, con due supervisor, uno per parte, insomma un casino inestricabile. Al di là di questo c'è un bravissimo direttore sportivo che è Sabatini, gli sono stati messi a disposizione dei denari, non una montagna di denari, ma dei denari consistenti, e sono stati presi dei giocatori importanti, perché io credo che Strootman e Gervinho siano stati due colpi assoluti di questo mercato. Uno non lo conoscevamo bene, ma avevamo già grandi credenziali. L'altro, cioè Gervinho, sembrava un po' bruciato dall'esperienza dell'Arsenal, e adesso ci sorprende a livelli da, non dico da fenomeno che è troppo, però ci sta sorprendendo. Quindi se i tifosi dell'Inter vogliono, nella loro incertezza attuale, aggrapparsi all'esperienza romana, beh, possono secondo me farlo, non c'è niente di sbagliato. A proposito di argomenti interisteschi, mi sono inventato questo neologismo da cancellare subito. A proposito di passato, a proposito di grandi campioni che hanno messo quella maglia, Toir aveva incoronato Nicky Ventola, che è il suo preferito, perché non gli piaceva dire Rummenigge. In realtà ce n'è uno più grande di Ventola e di Rummenigge, cioè Ronaldo. Intervista a Tiki Taka, Ronny non le manda a dire. Ma oggi? Secondo me lui... Cosa ti ha tolto lui? Lui mi ha... di scudetto quell'anno. Ma sono sicuro che anche lui è pentito di tutto ciò che ha fatto. Il calcio deve essere uno sport pulito, ha contribuito perché il calcio fosse più brutto. La tocca piano, il fenomeno, ormai impegnato come giocatore professionista di poker, e avete sentito cosa ha detto su Moggi, perché quella non gli è andata giù ieri. Grandi dichiarazioni di amore, eterno e incontrollato ancora per Moratti e per l'Inter. Però per quanto riguarda Moggi, c'è una notizia di oggi, che è questa, ve la leggo, di agenzia. 3 anni e 1 mese di reclusione per l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, pena di 3 anni. Per gli ex designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, e per l'ex vicepresidente della Federcalcio Innocenzo Mazzini. Queste sono le richieste del sostituto procuratore generale Antonio Ricci nell'appello a Calciopoli. Stefano Fermo, buongiorno. Buongiorno a voi. No, si muova pure, chiama da Fermo, ma non si preoccupi. Sì, sì. Niente, volevo dire soltanto una cosa. Voi avete fatto una domanda a Doddo prima: che cosa ha il Milan e che cosa in realtà a Roma ha di diverso. Ma io credo che nello specifico l'allenatore conta, anche se vogliamo nasconderci dentro le percentuali. Noi ricordiamo l'Inter di Herrera, il Milan di Sacchi, il Milan di Capello, la Juve di Capello, quindi se ricordiamo gli allenatori... L'Inter di Mourinho, la Juve di Conte, sì. Appunto. Lei, se ricorda il secondo gol della Roma di domenica, nel 10 minuti prima un'azione simile o quasi identica con Maicon, che mette la palla a 2 metri fuori dalla porta. Quindi significa che l'allenatore ha inciso più di quello che interpretano i giocatori, perché lei ha fatto presente che ha acquistato 2 buoni giocatori, ma ha dato via anche la Melà, ha dato via un altro difensore, ha dato via la Mela, ha dato via Marquinhos, certo, però per un grande giocatore che è andato, per questi grandi giocatori che sono andati via, ne sono arrivati degli altri che non mi sembrano così inferiori, ma oggi perché Gliaic sta facendo un'ottima stagione, quest'estate nessuno avrebbe mai previsto. Ma il bello è questo, no? Che le previsioni si sbagliano, in questo caso clamorosamente. Sono sistematicamente simili: le prime 5 partite le perde, e poi una quantità enorme di incidenti muscolari. Cioè, ma qua voglio di qualcosa, no? Non torna, penso, no? Sì. E poi anche nello schema offensivo il Milan ha preso 2 gol domenica simili sull'esterno. Sì. Ha preso 3 gol su 3 errori simili, diversi. Ha saltato costante sistematicamente da Biabiani, croste sul secondo palo, una volta Gazzano, una volta... Cioè, voglio dire, nel Milan lei non vede mai un'azione bella, ripetitiva, continuativa in fase d'attacco. O Balotelli si invende il gol, o un rigore. C'è poco, e quindi di che parliamo? Cioè, l'allenatore incide per l'allenatore, una buona percentuale. Incide su una buona percentuale. Io credo che Allegri abbia inciso per una buona percentuale anche sulle buone stagioni che ha fatto il Milan, perché queste ovviamente sono già passate in Cassazione. Però primo anno scudetto, secondo anno uno scudetto perso, e quella è stata la peggiore delle stagioni di Allegri al Milan, e poi quella dell'anno scorso in cui è partito malissimo, riuscì ad arrivare complice l'ingresso di Balotelli in squadra, perché questa è cronaca, a gennaio, con gol determinanti, con fiducia che man mano cresceva, è riuscito ad arrivare a un terzo posto a un certo punto insperato. Quest'anno sta ripercorrendo lo stesso cammino. È evidente che il Milan, pur non essendo una grande squadra, non vale quella distanza dalle prime, non vale quella classifica penosa che si ritrova adesso. Poi c'è il capitolo degli infortuni, e quello sì può essere più interessante e da esaminare anche in maniera un po' più aggressiva, perché io noto alla Roma, vabbè, si è fatto male Totti, ma tendenzialmente, romanisti, fate gli scongiuri che volete, anche voi interisti, mi sembra sia successo davvero poco sul fronte grandi degenti. Lungo De Genti. Al Milan uno si fa male e sta fuori dei mesi, perché di El Shaarawy si sono perse le tracce. Oggi rientra, anzi domani rientrerà De Sciglio, che è un giocatore fondamentale ma che è stato fuori tantissimo. Gli infortuni sono continui, sono seriali e soprattutto sono di lunga risoluzione, quindi questo è un problema da affrontare. Io insomma ricordo il Napoli di Mazzarri che utilizzava questo concetto che usa ora Garcia e che usa lo stesso Mazzarri all'Inter, non avendo le coppe di mezzo. 11 titolari, gli altri sono riserve, vengono ruotati 14 giocatori, non di più, e la squadra pian piano prende forma, prende risultati, prende fiducia e si innesca questa spirale virtuosa. Al Milan è il contrario. Tutti convocati. Stanotte avrete intuito da questa musica bellissima, struggente, che poi ovviamente in radio non si vedono, ma unite alle immagini delle superstar dell'NBA nel corso del tempo, quelle istantanee che si mescolano tra il colore, il bianco e il nero. Vabbè, da stanotte altro splendido motivo, lo dicevo prima, per non dormire mai, per fare ore da gamblers professionisti o da gente di malaffare. Non siamo né l'uno né l'altra cosa, almeno per il momento, né io né mio amico Davide Pessina, che commenterà queste partite. Ciao Carlo. Ciao Davide, quanto tempo. Davvero. Io invece ti faccio prima una domanda da milanista marcio quale sei. Come stai? Beh, insomma, potrebbe andare meglio. Però, ma anche vabbè, peggio, anche peggio. Sì, diciamo non un bel momento, però era abbastanza intuibile. Perché è intuibile? Beh, si capiva che insomma la deriva che aveva preso il Milan ultimamente era quella, insomma, alla fine una squadra che ha rinnovato abbastanza poco, per cui doveva andare così. Sì, insomma, che non fosse proprio in primissima fascia credo fosse abbastanza prevedibile. Che fosse in terza però meno. Comunque Davide. Sì, esatto, terza forse un po' troppo. Terza è tanta roba. No, volevo dirti, al Milan ci sono i lungo De Genti, stanno fuori un sacco di tempo, però nessuno lungo De Genti come il numero uno dei Chicago Bulls, che stanotte torna in campo per aprire questa stagione NBA sul campo del re, che è ovviamente LeBron James. Grandissima attesa per Derrick Rose, e qualcuno già dice: ma Chicago può vincere il titolo, può pensare allo scudetto del basket americano? Beh, ci può stare, nel senso che sicuramente Rose ha dimostrato in questa pre-season di star meglio, di star bene, di star molto bene, anzi a sentir lui è più esplosivo e salta di più di prima, e questo dovrebbe spaventare molti. Sta bene, la squadra rimane molto molto solida, molto ben allenata, ha messo comunque in difficoltà l'anno scorso Miami nei playoff, per cui sicuramente con l'aggiunta di Derrick Rose può essere molto intrigante. Io credo che l'Est quest'anno sia molto intrigante, sono 3-4 squadre che possono veramente dar fastidio a Miami, cosa che non sempre è successa negli anni scorsi. Tu sai che se non hai mai Sky tu? Io ho mai Sky, sì. Tu hai mai Sky, naturalmente sei avanti, tra l'altro ovviamente Davide Pessina racconterà l'NBA per Sky, torna a raccontare l'NBA per Sky. Chi non ha mai Sky come me è troglodita, scopro da un ascoltatore, troglodita, c'è mai Sky, puoi registrare. Ragazzi, confesso, io un ce l'ho, MySky mi manca. È comodo, devo confermare sì, che è molto comodo. Non ho dubbi, però non ce l'ho, e che devo fare? Senti, ma i macro temi di questa stagione, secondo te quali saranno? Beh, sarà appunto, ovviamente, se Miami riuscirà a fare il tripit, rimanendo a est, se Indiana riesce a fare ancora quel tassellino in più per mettere in difficoltà Miami, come ha fatto nei playoff. A ovest, se i Clippers riescono, soprattutto l'arrivo di Doc Rivers in panchina, a diventare la prima forza ovest e poter essere una squadra da titolo, se San Antonio ne è ancora dopo la bruttissimo finale, soprattutto dal punto di vista psicologico, è stata una bella mattata per loro. Per cui direi che insomma, secondo me quest'anno più degli anni scorsi sono veramente 5-6 squadre che possono seriamente pensare di arrivare fino in fondo, e questa è una cosa secondo me che aggiunge molto fascino alla stagione. Oppure di converso non ci sono più quelle 3-4 squadre dominanti, ce n'è una che è quella dei campioni in carica, ma le altre hanno luci e ombre, hanno qualcosa da scoprire, hanno... Sì. No, è così, cioè sì, sì. Difficile dire anche una individuare anche un anti-hit al momento, perché ce ne sono 3-4 appunto, ma tutte con quest'area di incertezza. Ovviamente diventa più nutrita la pattuglia dei nostri. Sono molto curioso di vedere Berinelli in quella squadra che secondo me ha già fatto il canto del cigno l'anno scorso, cioè San Antonio. Non può bastare Berinelli per rivitalizzare una squadra pure di campionissimi. No, non può bastare. È vero che l'anno scorso sono andati molto vicini per una squadra tutt'altro che giovane, è veramente una grandissima occasione. La domanda è sempre la stessa: ne hanno ancora per fare un altro anno così? Possibile. Io contro di loro non scommetto mai. No, neanche io. Hanno un allenatore neanch'io. Primissima fascia, e parlando di Bellinelli, le parole di Popovic, che non è esattamente uno che le regala, sono molto importanti, perché ha sottolineato la sua intelligenza, la sua voglia di rimanere in campo nei momenti importanti, e il fatto che insomma deve trovare il modo di trovargli dei minuti. Questo secondo me è una cosa molto importante, insomma, arrivando a San Antonio. Ripeto, Popovic non è uno che regala complimenti. Qualche scrittore sul muro degli SMS è: certo vince Brooklyn per la gioia di Jay-Z. Sì, che poi adesso ha dovuto vendere la sua minima quota perché è diventato agente, quindi non può avere le due cose, quindi ha venduto la sua quota. Brooklyn ha speso tanto, spende veramente davvero tanto, e spende tanto anche come tasse nei prossimi anni, per cui insomma ha una finestra abbastanza breve, perché Garnett, Pierce, insomma, sappiamo che non sono più giovanissimi, punta quasi tutto su quest'anno, scommettendo su un allenatore al primo anno, Jason Kidd, che ovviamente ha un'enorme esperienza da giocatore, ma da allenatore è tutto da scoprire. E però anche questa è una squadra da seguire con grande attenzione, perché soprattutto come quintetto sono impressionanti. Certo, però la storia recente degli ultimi anni, Davide, insegna come queste operazioni quasi mai funzionano, no? Da Carmelo che va ai Lakers per vincere il titolo, a Steve Nash l'anno scorso e agli altri che sono andati lì per vincere il titolo a fine carriera, l'ultima pallottola del grande campione viene preso per appunto quel colpo, quell'anno, per quell'obiettivo. Non sempre, anzi mai negli ultimi anni ha funzionato. È difficile, la differenza forse è che Garnett e Pierce hanno già vinto, quelli che avevi citato non avevano ancora vinto, per cui questi sanno più o meno come si fa. E poi insomma Garnett è una discreta garanzia, ripeto, molto affascinante. C'è anche Kirilenko che esce dalla panchina, che è un giocatore interessantissimo, per cui insomma Brooklyn si infila tra le prime quattro probabilmente a est, e poi tutto come sempre dipende dalle condizioni fisiche in cui arriveranno i playoff. Grazie Davide, buon lavoro. Grazie a voi. E tanto caffè, sì. Anche per me. Ciao Dan. Mi rendo conto che il contrasto è abbastanza stridente tra questa musica addirittura poetica, no, che è quella dell'NBA, e ciò che stiamo per farvi ascoltare, ma vi assicuro è divertentissimo. Torniamo al calcio e allo titolo. L'ultima domanda che le faccio: qual è il risultato in classifica? Lo dico, per fortuna non 5, ne può fare pure 20. Adesso... Enrico, non conti nulla. Stasera esco veramente frustrato. Sono andato allo psicanalista. Ma vieni da me che ti faccio la seduta. Sono un psicologo. Le riprendono ma voi le pay TV a cui vuoi fare dei contratti voi, molto importanti. Voi volete riprendere perché è un cacciare di soldi, voi volete no. Pagare moneta per delle cammelle. Sì, infatti, e infatti, e voi ve ne fate pagare un pochino da quelle che sono le pay TV, quindi però prendetevela con loro se non fanno vedere Olimpia. Io noi dico come nulla, rappresentante del mondo della televisione, mi ho detto lei è no, la Rai. Se fosse per ricoverare quando cascia i soldi. Appunto, ha ragione. Poi ieri sera ragazzi volevamo vedere Colorado, ma vi assicuro che questo è 10 volte più divertente. Ve lo assicuro. Simone Piacenza, buongiorno. Buongiorno signor Genta, Simeone, si corregga. Simeone. Con pardon. Genta, cercherò di essere brevissimo. Io vorrei dire solo una cosa. Sono un tifoso della nazionale, un interista molto blando. E vorrei parlare di Balotelli. Cominciamo tutti quanti a giudicarlo per quello che fa in campo e basta. Se, se dimostra di essere un campione saremo i tifosi, lo dico tutte le volte, più felici. Se no basta, cioè faccia quello che vuole fuori, chi se ne frega. Domani mattina quando andiamo tutti a lavorare cosa cambia di quello che fa Balotelli nella vita privata? Io penso nulla. No, non lei pensa nulla, proprio nulla. Se dobbiamo parlare di uno sportivo, mi perdoni, l'ultima cosa poi la lascio, parliamo degli sforzi che può fare un Nibali, un vecchio Yuri Chiechi, che oggi non ho un metro di paragone con un ginnasta italiano, e sicuramente ce ne sono tanti che lavorano fortissimo, fanno una vita di grandissimi sacrifici. C'è stato Cassina, abbiamo una grande scuola di ginnasti, ma sì, però non anche qui non cadiamo nell'equivoco di fare il parallelo tra la fatica, quella fatica più sana, più bella, meno retribuita, quindi vale di più, questa invece è fatica inferiore, molto retribuita, cioè sono sportivi che fanno vita, che devono far vita di campo, e li valutiamo sul campo, no? Ha ragione lei, chi se ne frega di quello che fa fuori dal campo. A me questa operazione di imbiancatura della facciata del numero 45 col tutor eventuale in versione in bianchino con grande pennello a me non piace, mi sembra una cosa falsa, una cosa forzata, anche una cosa frustrante per chi la subisce. Detto questo, ha ragione lei, l'ho detto mille volte, vediamolo sul campo, fa schifo, lo diciamo, che problema c'è? Enrico Rimini e poi andiamo a casa. Salve a tutti. Salve Enrico. Complimenti per la trasmissione, vi facciamo perché siete... Grazie. No, mi avete fatto venire voglia di telefonare quando avete parlato di notti in bianco. In questi giorni ci sono le World Series di baseball in America. Sì, l'ho detto. Anche se, ecco, scusa, ma ho acceso un po' tardi. Non sono 3-2, è un altro motivo per cui si va a dormire mai. Adesso però, per fortuna, dovrebbero finire. Boston ha il match ball in mano, 3-2 su St. Louis. Può giocare a Boston e può chiudere almeno questo capitolo delle nostre veglie notturne. Finirà quella, entrerà l'NBA e vedrete, si continuerà a non dormire ma a divertirci. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati.